Trasimman tagli un buco in un canceio, e in angaglia di spingiro un tanachiazzicei a mancopata che mi parevano camposanto chiano. Pensavi che gli andavi via l'arbori chiomosci, i passeri chiomosci, i gatti chiomosci e i casi chiomosci che mi andavi capitato ovio.